articoletto sui giornali di oggi per capire meglio come la penso io e come sia giusto, se avete poco tempo, approfondire da punti di vista diversi. Oggi sicuramente, per esempio, il quotidiano più montiano di tutti è La Stampa, che apre con il titolo d'apertura è addirittura Monti pronto l'appello al centro, il discorso atteso nel fine settimana. Oggi Montezemolo annuncia la lista di Italia Futura, cioè La Stampa sarà il quotidiano di Montezemolo. I Monti sono proprio la questione dell'orografia tra Monti, Monti e Montezemolo, e continuerà nella politica italiana, c'è poco da fare. E comunque su questo ci sono gli approfondimenti della Stampa, ma io mi permetto di dire che l'articolo di Mattia Feltri, sempre sulla Stampa, è un articolo sintetico, di colore, ma c'è tutto. Il titolo dice: leader e Capetti evaporano come la Seconda Repubblica, chi si defila, chi resiste, chi si ricicla tra amicizie finite e rottamazione. E ce n'è un po' di tutte: Ignazio Russa 1 e 2 che rompe con Gasparri, Walter Veltroni, D'Alema. A proposito di D'Alema, su Corriere della Sera trovate invece un nuovo intervento del leader del PD a pagina 5, che insiste nel mettere sull'avviso, con una tagliente rudezza, come costume di Massimo D'Alema, il premier, il presidente del Consiglio. Cosa dice? Anzi, ridice l'onorevole D'Alema rivolgendosi a Monti. Dice che anche Napolitano ha detto che non è candidabile, non è candidabile, e c'è una lunga discussione perché Pierluigi Battista continua a pizzicarlo, il giornalista del Corriere, sul fatto, beh, però insomma, quando Dini era a vantaggio della sinistra, il tecnico al partito dell'onorevole D'Alema non dispiaceva. Il problema è che se poi improvvisamente un tecnico diventa sostenitore di un'ipotesi diversa, e beh, allora a quel punto la questione cambia. Comunque D'Alema continua a dare un chi va là molto forte su molti quotidiani la vicenda Pannella, per la vicenda di Monti. Devo dirvi la verità, molti ascoltatori anche qui dicono: occupa di Pannella, occupa di... Io ne ho parlato ieri, avete sentito che stanotte si è sentito male, accetta la terapia di sostegno, sono molto contento. Vedremo questa battaglia. L'amnistia non si può fare, quindi chiedere cose irrealistiche è proprio delle cose... delle persone irrealistiche, un po' visionarie come Marco. Il sistema è molto usurato, io mi limito a dire questo, nel riconoscere a Pannella tutti i punti validi di questa sua strategia di autosofferenza, per così dire, che però è ai limite di essere alla fine una strategia che nel tempo si usura, per così dire, si usura, è così. Allora, andiamo al tema della giornata. Abbiamo promesso di capire meglio i numeri della sofferenza, per così dire, dove per sofferenza non intendiamo quella delle patologie, intendiamo quella dei morsi della crisi. Perché? Perché è stato presentato il rapporto sulla coesione sociale, rapporto sulla coesione sociale che viene curato dall'Istat, quindi è ovviamente contiene ed elabora i dati aggiornati al 2011 e al censimento della società italiana, e viene elaborato insieme all'INPS e al Ministero del Lavoro. Ed è un quadro, per così dire, dal quale esce fuori un spaccato della società italiana che porta alcuni quotidiani, per esempio, cito Il Messaggero, pagina 11, a titolare: il 30% degli italiani è vicino alla soglia della povertà. Il nostro paese ha avuto l'incremento più alto in Europa, al 3,3% in un anno. L'altra parte del sommario recita: in molti rinunciano al riscaldamento, soffrono soprattutto le famiglie numerose. Dalle infografiche vi riporto qualcuna delle cifre. In cerca di lavoro sarebbero 1,128 milioni di italiani, cioè 1,128 milioni, ecco, di italiani. Già messa così, secondo me si capisce poco, ma questo è il problema che hanno i giornali italiani con le cifre, l'infografica è sempre questo. Il 51,3% di questo 1.100.000 di italiani in cerca di lavoro lo cerca da almeno un anno. Nel 2011 qui si dice consumi delle famiglie più 0,2% rispetto a un 2010 1,2%, andiamo a un 2012 dove invece la caduta è record rispetto all'intera storia della Repubblica, e così via. Ma tenteremo di capire meglio queste cifre avendo con noi, come già ieri pomeriggio era da Sebastiano Barisoni, Focus Economia, e con noi il presidente di Istat, il professor Enrico Giovannini. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, ci fa capire un po' meglio quanto i record negativi su alcune cose, tipo il reddito disponibile delle famiglie, i consumi delle famiglie, in questo 2012 rispetto ai numeri 2011 su cui è questo rapporto, disegnano un peggioramento graduale nel quadro di un percorso di caduta del benessere, della produzione, della produttività italiana di medio e lungo periodo, oppure, come sembrerebbe rispetto a questa cifra del 2011, la perdita di, non lo so, 8,2% di investimenti nel 2012, consumi e reddito disponibile delle famiglie più vicine quasi al meno 4, insomma tra il meno 3 e meno 4%, quindi il record nella Seconda Repubblica, sono un punto di rottura rispetto a una linea di caduta che già si vedeva qua nei dati 2011-2010. Cioè, siamo in presenza di che cosa? Di una buca profonda o di un declivio che continua, secondo lei? Ma intanto una correzione rispetto ai dati che sono stati detti: non è che un terzo degli italiani, ecco, è vicino alla soglia di povertà, ma un terzo degli italiani è in condizioni, secondo la definizione europea, di deprivazione o rischio di povertà e esclusione sociale. Cioè non sono oggi necessariamente poveri, ma sono a rischio di esclusione sociale perché non riescono ad esempio a fronteggiare una spesa improvvisa di 800 euro, oppure non riescono a riscaldare adeguatamente l'abitazione, oppure non riescono a mangiare come dovrebbero e così via. Questa è una precisazione che mi sembrava importante, perché altrimenti abbiamo appunto mi riferivo al titolo del Messaggero, un'impressione peggiore di quella pur negativa che è. Venendo alla sua domanda, il punto di svolta spieghiamo ancora meglio a chi è in ascolto, cioè ci sono i poveri effettivi e ci sono, sempre secondo definizione standard, ricordiamola, le chiedo di ricordarle, e poi ci sono coloro che sono in una soglia che inizia a diventare a rischio. Allora vediamo un secondo come si definiscono i poveri effettivi, qual è il criterio statistico italiano comparato e quanti sono, e quanti sono coloro invece che stanno in questa soglia più elevata ma a rischio. Allora, secondo la definizione di povertà relativa, cioè coloro i quali spendono, ad esempio una coppia di due persone, metà di quello che normalmente si spende, abbiamo una quota vicina all'11% della popolazione italiana. È un dato abbastanza stabile perché, nonostante la crisi, questa misurazione si basa sulla spesa, non sul reddito. Perché questo è importante? Perché in tutti questi anni gli italiani hanno, a fronte di una crescita molto contenuta per tutti gli anni 2000, ridotto il risparmio. In altre parole, non guadagnando abbastanza, volendo mantenere un livello di vita che ritenevano ottimale, hanno ridotto il risparmio e così finanziato i consumi. Questo è quello che è accaduto nel corso degli anni 2000. Dopodiché abbiamo invece la condizione di povertà assoluta e sono le persone che hanno difficoltà a spendere quello che abbiamo considerato un paniere minimo di spese per l'abitazione, per l'alimentazione e così via. E qui siamo intorno al 4%. Questi sono i dati rispetto alla povertà. Abbiamo però un indicatore che è quello europeo, relativo anche alla strategia cosiddetta Europa 2020, che è appunto il rischio di povertà e esclusione sociale, che mette insieme questi indicatori di deprivazione materiale, come appunto quelli che citavamo prima, e qui ed è qui dove nel 2011 abbiamo il 28,4% degli italiani che sono in questa condizione. E quello che colpisce, ripeto, parliamo di dati 2011, che c'è stato un forte aumento rispetto all'anno precedente. Quindi siamo in condizioni di povertà, diciamo la fascia vera della povertà, eccetera, meno di 2 milioni di individui, che pure non sono pochi. In condizioni di povertà relativa siamo più o meno a 8 milioni e 100 mila, più o meno. E poi, quindi, già sommati questi, arriviamo tra 8 milioni e la fascia di povertà vera a quasi 10 milioni di italiani, corretto? No, però uno contiene l'altro. Esatto. Dopodiché, quindi, in questi 8 milioni ci sommiamo quelli che sono in fascia di forte deprivazione di cui si vedono i segni, e quindi arriviamo a un totale di milioni? Beh, se siamo circa un terzo della popolazione rispetto a 60 milioni, quindi siamo intorno a... Allora, se facciamo una fotografia comparata di questo terzo, così, su tre diversi livelli che inglobano, ovviamente inglobati al 30%, ma così definiti e stratificati, e rispetto alla media delle altre grandi paesi europei oggi, come sta messa l'Italia? Beh, siamo con 4 punti in più rispetto alla media europea, cioè la media europea è di circa il 24%, noi siamo al 28,4%, e abbiamo in particolare 2 punti in più rispetto al rischio della cosiddetta severa deprivazione, cioè soggetti che hanno varie deprivazioni come quelle che ho citato prima, e invece il rischio di povertà siamo intorno al 20% contro il 17% della media europea. Non dobbiamo poi dimenticare che all'interno dell'Italia abbiamo condizioni molto diverse. Ad esempio, le persone gravemente deprivate sono il 20% della popolazione nel mezzogiorno, mentre invece nel centro sono il 7,5% e nel nord il 6,4%. Un dato che ha colpito molto è che, in particolare nel mezzogiorno, passando dal 2010 al 2011, di quel 19% che ho detto prima, l'8,5% nel 2010 non aveva nessun sintomo di deprivazione. Vuol dire cioè che nel 2011 la situazione è peggiorata rapidamente e gravemente, portando persone che apparentemente erano nella cosiddetta classe media invece in una situazione a rischio. E nel 2012, dai dati che abbiamo fino a questo momento, direi che la cosa va molto peggio, perché, ripeto, i dati rilevati del reddito disponibile, dei consumi, eccetera, eccetera, sono da accentuazione fortissima del fenomeno, non sbaglio. Esattamente. Nei primi 6 mesi del 2012 il potere d'acquisto, cioè il reddito disponibile al netto dell'inflazione, ricordiamo che il reddito disponibile è quello che entra meno quello che esce per tassazione, contributi, eccetera, è diminuito del 3,5%. Una caduta molto forte che è stata in parte dettata dalla caduta del prodotto interno lordo, che nella media dell'anno scenderà di circa il 2,4% a seconda delle previsioni, ma è una caduta che deriva anche dall'aumento della pressione fiscale, come sappiamo bene. Vorrei sottolineare a questo proposito che i consumi, che storicamente diminuiscono di meno del reddito, proprio perché le famiglie tendono a compensare riducendo il risparmio la caduta del reddito, questa volta hanno invece segnato una brusca caduta. Perché? Perché a metà del 2011 quello che è accaduto, ne abbiamo già parlato un'altra volta insieme, è stata la presa di coscienza, che era mancata invece nella crisi 2008-2009, del fatto che questa crisi non è un fatto temporaneo. In altre parole, di fronte al peggioramento della congiuntura mondiale, la grave crisi 2008-2009, le famiglie italiane hanno pensato che fosse un fenomeno temporaneo, transitorio, e quindi hanno ridotto il risparmio per sostenere i consumi. A metà del 2011, con la crisi dello spread, con l'incertezza, con tutta la situazione che ricordiamo bene dei mercati finanziari, ci si è reso conto che la crisi era un fatto molto più duraturo, e questo ha determinato un vero e proprio crollo dei consumi, nonché degli investimenti, un peggioramento del clima di fiducia complessivo delle famiglie e quindi un atteggiamento molto guardingo rispetto alla spesa, anche da parte di chi tutto sommato non è stato colpito dalla crisi. A fronte di tutto questo, la risposta degli strumenti di sostegno al reddito, la risposta degli strumenti di sostegno alle famiglie, eccetera, eccetera, sia in termini che di politiche attive che no, come la vogliamo giudicare? Si è adeguata a questo molto rilevante fenomeno di peggioramento delle condizioni della popolazione italiana in vasti strati, insomma, di famiglie che se la passano così significativamente peggio 2011 sul 2012 e 2012 sul 2011, oppure no? Beh, un dato che sorprende è che è vero che la disoccupazione è aumentata, ma l'occupazione ha tenuto fondamentalmente. Perché? Perché nonostante la caduta della produzione, che come abbiamo detto è stata molto forte, l'allargamento degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, altri strumenti, mobilità e così via, ha consentito di rendere minimo l'impatto delle chiusure di fabbriche oppure di riduzione della produzione sul numero di occupati. Naturalmente è cresciuta la cassa integrazione. Questo vuol dire però che molte persone sono ancora formalmente occupate presso l'impresa. Inoltre dobbiamo ricordare che questi strumenti hanno consentito alle imprese di conservare il capitale umano in attesa di un recupero produttivo che le stime normalmente indicano intorno alla metà del 2013. Questo elemento ha ridotto l'impatto della crisi sull'occupazione e quindi sui redditi delle famiglie, che sono scesi però, come abbiamo detto prima. Ultima considerazione, sappiamo che in Italia le politiche cosiddette attive sul mercato del lavoro o il sostegno al reddito dei disoccupati e così via sono relativamente meno sviluppate che in altri paesi. Noi abbiamo gran parte della spesa sociale che se ne va in pensioni, mentre in altri paesi va una quota superiore all'assistenza. Ecco, questo elemento è ancora uno dei vincoli forti che il nostro paese, di cui soffre il nostro paese, soprattutto rispetto ai giovani che con lavori a tempo determinato possono affrontare anche periodi lunghi di disoccupazione. Senta, le posso fare una domanda relativa a questo? A me ha sempre colpito nel tentare di elaborare i dati sul totale dei rapporti previdenziali in essere, come nella classificazione che noi abbiamo, questo ci pensa l'INPS, poi voi ci lavorate sopra, però ci sia le percentuali dei rapporti, del numero dei trattamenti, voglio dire, per soglia, ma non vi sia l'ammontare dei trattamenti per soglia. Cosa voglio dire? Noi sappiamo che qual è la percentuale che va di rapporti previdenziali entro una certa soglia, 1000 euro, 2000, 3000 euro, eccetera. Poi in realtà non ci danno le quantificazioni di quanto queste robe rappresentino in termini di onere sul totale dei 16 punti di PIL che se ne vanno in previdenza e assistenza. Secondo lei perché non possiamo contare su questa roba? Per renderci più difficile a chi volesse intervenire diciamo sulle pensioni che sono tutte retributive e rispetto a quelle invece contributive delle generazioni successive sono troppo elevate, pur essendo legittimamente versate secondo quanto prevedevano le norme di allora, perché non possiamo saperlo? Ma io non credo che non ci sia alcuna ragione per non saperlo, anche perché sono dati che nei nostri bollettini sono spesso riportati, per cui forse la tavola che viene utilizzata per il comunicato stampa non contiene questo dato, ma io stesso a questo punto, dopo la sua segnalazione, verificherò sulla possibilità di diffondere questa informazione. Perché le posso garantire che, avendo visto con economisti molto bravi di me specializzati, diciamo, noi che ci facciamo il conto che per esempio per le pensioni sopra i 3.500 euro, sto parlando del lordo, nel 2011 più o meno siano stati 12.4 miliardi, mentre se andiamo a ai 4.000, quindi stiamo parlando di una classe percentuale sul totale dei trattamenti bassissima, però sopra i 4.000 sono comunque 9 miliardi e mezzo più o meno. Però le posso garantire che fare questo tipo di estrapolazioni, almeno dai numeri ufficiali che noi vediamo nelle tabelle dell'INPS, dove troviamo le percentuali del trattamento per soglia, ma non l'onere relativo distinto. E invece, secondo me, siccome bisognerebbe andare a un intervento di questo tipo, sia pure con un dibattito pubblico, non certo per decreto legge, perché questo è uno dei tanti esempi su cui, come secondo me, dobbiamo riaggiustare l'Italia, mi permettevo di fare un appello pubblico. Comunque, intanto grazie al presidente Giovannini che come sempre ci ha dato limpidità e grande chiarezza sui numeri, soprattutto nella distinzione tra le tre diverse stratificazioni di povertà assoluta, relativa e spiegazione dell'indice di deprivazione di anno in anno. Ce l'abbiamo in linea, perché non riesco a vedere se si aggiorna la mia cosa, il eccolo qua, sì. In questa seconda parte della puntata volevo commentare questi stessi dati presentati ieri e poi quelli presentati pochi giorni fa, il 7 dicembre, dal Censis, un grande osservatorio pluridecennale dell'evoluzione degli stili di consumo e delle identità sociali, territoriali, culturali che convivono nel grande corpo del nostro paese. Ecco, è con noi Giuseppe Roma, che è il direttore del Censis, e pochi giorni fa, quando Censis ha presentato il suo rapporto, proprio di fronte alle condizioni di questa società italiana che abbiamo richiamato con i numeri della sofferenza sociale, chiamiamola così, confermati nel rapporto sulla coesione presentato ieri dall'INPS e dall'Istat, ecco, per descrivere quel fenomeno nel rapporto Censis si usarono termini come al solito un po' immaginifico: la sindrome delle tre R, disse De Rita, risparmio, rinuncia, rinvio, ecco, per dire italiani che vedono la propensione al risparmio sul reddito disponibile scendere. Lo abbiamo visto in termini record, siamo ormai a meno dell'8%, eravamo a doppia cifra pochi anni fa, di fronte a perdita di reddito disponibile e di consumi record entrambi, con la seconda superiore addirittura alla prima, e in un quadro generale che vede per esempio gli investimenti che danno l'idea di un paese quanto crede nel proprio futuro scendere in questo paese, che se riveli record dell'8,2%, siamo al 25% di investimenti in meno rispetto al 2007, a 29 punti di produzione industriale rispetto al 2007, quindi una crisi profondissima, soprattutto dei tre quarti del PIL che sono il mercato domestico. E, ecco, di fronte a questo chiedo a Giuseppe Roma l'impressione che ha lui, la stessa domanda con cui ho cominciato con Giovannini: siamo a una buca cui cadiamo, ma per un anno, perché c'è un percorso oramai di medio-lungo periodo di una china che stiamo scendendo, una china che scende con un declivio dolce, poi una buca e poi riprende il declino dolce, oppure secondo lei invece no, cambia la ripidità di questo declino che da lunghi anni abbiamo rispetto ai nostri partner e concorrenti internazionali, ma è un cambio proprio di rotta sempre più verso il basso? Come la vede, se dovesse formulare una previsione, i dati di questa effettiva grande sofferenza aggiuntiva in un anno e mezzo delle famiglie italiane? Ma guardi, io penso, anche quando abbiamo analizzato con lo smottamento del ceto medio un po' tutta la situazione dell'anno 2012, è stato un anno difficile, il 2013 sarà altrettanto difficile. Io non credo che questo siano fenomeni congiunturali, perché la crisi è troppo lunga, dal 2008 sono tanti anni, e sappiamo che questa direzione che noi abbiamo preso verso il basso, una riduzione dei redditi disponibili delle famiglie, una riduzione dei consumi, una riduzione degli investimenti, è un processo di lungo periodo, almeno 10-12 anni, quindi è una direzione, e secondo me non è una direzione solo italiana, insomma noi abbiamo proprio un problema di modello, di sistema, di organizzazione del lavoro, abbiamo un problema europeo, perché è chiaro che una gran parte dei nostri disagi avviene anche perché siamo un modello molto caro dal punto di vista del welfare, dal punto di vista della spesa pubblica. È chiaro che in Italia è ancora peggio, perché non solo siamo cari, ma siamo anche spreconi e siamo anche utilizziamo male le risorse e c'è tanta corruzione. Quindi questo è il quadro. Dentro questo quadro, che Italia c'è? c'è un'Italia delle imprese che l'ultimo anno abbiamo visto crescere, soprattutto delle imprese che si internazionalizzano, imprese e settori nuovi, non sono solo i tradizionali settori dell'alimentare, del Made in Italy, se vogliamo anche della meccanica, abbiamo settori nuovi che stanno andando bene, il farmaceutico, la chimica. È chiaro che questa è una parte, una piccola parte del nostro PIL, una piccola parte anche della nostra economia. E ci abbiamo dall'altra parte invece questo attacco a quella dimensione intermedia delle famiglie, che appunto una volta si chiamava ceto medio, non abbiamo trovato un termine migliore, così la gente capisce subito di cosa stiamo parlando, che è andato via via riducendo la sua capacità di fare reddito e di risparmiare, e quindi ha praticamente, diciamo, non so se sia una buca o se sia un piano inclinato verso il basso, certamente non è più il modello che ha fatto l'Italia. Il modello che ha fatto l'Italia era: si lavorava, si guadagnava, si risparmiava, si investiva nella casa, si investiva i risparmi nei bot, eccetera, eccetera. Tutto questo creava comunque un buon circuito, un mercato interno, consumi, eccetera. Questo non avviene più, ma non avviene più, io questo veramente vorrei dirlo con forza, perché purtroppo mediaticamente noi ripetiamo sempre le stesse cose: i ricchi si arricchiscono di più, i poveri diventano sempre più poveri, le disuguaglianze crescono, eccetera, e non capiamo dove sta il problema. Il problema non è di distribuzione, il problema è di un cambiamento epocale di tipo generazionale. Oggi quelli che hanno 35 anni non risparmiano nulla, zero, ma quelli che hanno invece un'età adulta stanno relativamente bene. Adesso lasciamo perdere, c'è la telefonata del pensionato, è chiaro che dice non è vero, ma non è così, perché c'è uno spostamento. Addirittura, se guardiamo i dati Banca Italia sul patrimonio delle famiglie, noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto uno spostamento verso l'alto, cioè i ricchi sono i ricchi, quelli che hanno un patrimonio più di 500.000 euro si sono quasi raddoppiati. Esatto. Il che vuol dire che c'è un filtraggio verso l'alto, c'è, e abbiamo anche che i poveri, cioè quelli che non hanno nulla, sono passati che non hanno patrimonio, se non un patrimonio molto piccolo, cioè una casa che vale poco sostanzialmente, sono passati dal 35 al 30%. Ma noi possiamo dire che con questi dati c'è una dinamica della società? Non c'è una dinamica della società, però non c'è neanche quell'altro tipo di… quel processo di polarizzazione alto-basso è un processo di una società molto dinamica, bene o male distribuisce vari redditi ma li crea. Qui il problema è che noi non li ricreiamo, esatto, i redditi, questo è il punto, e quindi se non partiamo da lì possiamo fare tutte le lamentazioni. Voglio dire solo un'ultimissima cosa, e non vorrei che neanche ci sia, guardi, io ho fatto alcune trasmissioni con veramente ho visto un'Italia straordinariamente diversa da quella che è rappresentata, nel senso che anche in questo disagio, per esempio, mi ha colpito molto una famiglia, un tunisino, che ha detto: ok, è chiaro, abbiamo meno soldi, consumiamo meno, ma c'è anche più solidarietà, noi non andiamo più a cena fuori, ma siamo molto meglio perché facciamo il giro delle case, il sabato ci vediamo ognuno in una casa. Non voglio certamente fare il discorso che tanto tempo fa come si vive bene in Borgata, però quello che voglio dire è che il disagio è più profondo su temi come l'avvenire dei giovani, cosa sanno fare i giovani, se potranno, perché non c'è domanda di lavoro, perché certi settori che potrebbero andar bene sono soffocati dalla burocrazia, cioè la gente poi sente questo, chiaro che soffre, ma questa sofferenza riesce, e in questa è la mia piccola invenzione delle 3R, che cosa vuol dire? Che c'è una tattica anche di sopravvivenza che non è puramente pauperistica, perché quando io dico la gente risparmia, elimina gli sprechi anche, la gente rinvia, perché ha un po', è prudente e preferisce tenersi qualche soldo da parte piuttosto che spendere. Poi c'è chiaramente la rinuncia, e questo è quello che fa abbassare i consumi. Però è un popolo che attivamente cerca di trovare delle soluzioni, insomma, non so. Invece questa logica pauperistica è anche molto passiva, no? Per cui ci sono dei grandi meccanismi che stanno uccidendo l'Italia. No, qui bisogna dare un messaggio anche da dove partire. Per esempio, io penso che la burocrazia, questo paese, in questi giorni è veramente, stiamo vivendo una cosa kafkiana, cioè provvedimenti che entrano e escono, emendamenti, usciranno degli obbrobbi di legge che provocheranno una impossibilità ad operare, che provocheranno mille pareri diversi, ricorsi al TAR, cioè, allora questo è che realmente ammazza il paese. Sono molto d'accordo, l'esito di questa legislatura, ma da 6 mesi è così, è un Parlamento che scassa qualunque provvedimento come ai vecchi tempi dei peggiori governi balneari democristiani, eh? È così, la legistabilità è entrata in un modo, sta uscendo frutto di compromessi erratici, quotidiani. Anche cioè. Stamattina al Senato mi pare che ci sia una situazione, esattamente, di confusione totale. Dopodiché l'unica cosa che va avanti è, visto l'elevata percentuale di avvocati in Parlamento, riusciranno in qualche modo a fare la loro riforma, come dicono loro, su quello. Ma detto questo, le parole di Giuseppe Roma, sulle quali sono molto d'accordo, sia nel attenti ad evocare strumenti redistributivi, il problema vero che ci viene consegnato da questi dati di peggioramento molto forte della condizione del ceto medio da 2 anni e mezzo a questa parte, è un problema di segnalazione forte di incapacità crescente, e crescente dopo anni in cui era già evidente, ma crescente, tassi molto rafforzati, incapacità di generare reddito per chi stava nel mezzo. Questa roba si accompagna però con una tendenza di medio-lungo periodo che era non di impoverimento generale della società italiana, bensì di rafforzamento della sua patrimonializzazione, cioè aumento delle percentuali di chi è ben patrimonializzato, diminuzione della percentuale dello zoccolo basso nella piramide sociale, che non è più una piramide, di chi è pochissimo patrimonializzato. E quindi il problema di questo paese per riprendere la generazione di reddito e di consumi è appunto quello di interventi che inducano gli italiani a essere un po' meno patrimonializzati, immobilizzati su valori patrimoniali. Vi segnalo che in questo 2012 anche la perdita dei valori patrimoniali e da record negativo. Rifletteteci bene se pensate che il vostro mattone su cui avete messo, cari ascoltatori a casa, per chi ha reddito medio-basso, una quota troppo elevata del vostro reddito disponibile per tanto decenni, sia davvero la vostra sicurezza. Questo è un paese che va indotto a depatrimonializzarsi, sia pure con attenzione, con gradualità, per invece essere incentivato a produrre reddito e a produrre flussi e consumi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci vuole un meccanismo per il quale, per esempio, chi ha minore anzianità e giovani, le donne devono essere i primi a cui si diminuiscono le imposte e i contributi, perché non è vero che i lavoratori sono tutti uguali, come io ripeto sempre da qualche tempo a questa parte. Quindi chi ha minore anzianità contributiva, a parità di prestazione di reddito, di prestazione di lavoro, di reddito realizzato, deve avere una pressione fiscale contributiva inferiore agli altri, perché così noi aumentiamo l'incentivo per le imprese ad assumerli e gli mettiamo più reddito disponibile in tasca. Ma quello che conta significa generare flussi. Ragionare invece su sappiamo chi è la parte più elevata del paese che ha di più, pigliamola e ridistribuiamocela, serve a poco, tendenzialmente a niente, a dire la verità, se non a moltiplicare poi gli effetti Depardieu. Eccoci qua, tornati in studio. Lo spread continua a essere poco sopra quota 300, quindi siamo in una fascia molto buona dal punto di vista europeo, e io mi auguro che l'Italia non faccia altre follie, perché si può contare su un corridoio di considerevole, ragionevole sicurezza fino alle prossime elezioni tedesche, cioè di qui a un anno, per il quale la Germania contribuirà a non dare segnali ai mercati di incrudimento della situazione degli euro deboli, cioè di aumento del loro spread, perché non avrebbe la convenienza la maggioranza politica uscente in Germania a fare una cosa di questo genere. Torniamo ai dati di questa sofferenza e come si può leggerli. Vediamo se siete d'accordo con quello che abbiamo detto io alla fine, io e Roma, che il problema non è quello della patrimoniale che vi propone qualcuno tra poco, cioè della redistribuzione di chi ha di più, perché quella è un'illusione, perdonate. Oltre a aumentare l'inefficienza generale con una pressione fiscale così elevata, accrescerla significa questo, è anche un'illusione dal punto di vista della soluzione del problema, che abbiamo visto essere quello della vastissima fascia intermedia delle famiglie italiane, quelle che aumentano la propria deprivazione, che non sono né i poveri assoluti né rientrano nell'indicazione di povertà relativa, ma sono quelli che hanno visto in 2 anni peggiorare molto significativamente la loro condizione di risparmio e di consumi. Vediamo come la pensate. Cominciamo con Gianni da Bologna. Prego Gianni. sì, io stavo riflettendo, pronto, mi sente? Sì, certo. Stavo riflettendo proprio mentre voi parlavate su una notizia che si è diffusa recentemente che riguarda proprio il patrimonio in mano agli italiani. Pare che il 10% degli italiani detengono il 50% del patrimonio. E se questo è vero, come immagino che possa esserlo, perché se i dati provengono da istituti di ricerca abbastanza noti, adesso non ricordo bene il nome, questo vuol dire che c'è proprio una, come dire, il presupposto per una mancata possibilità di coesione sociale, se una cosa di questo genere prosegue. Cioè, come mai in un contesto di povertà diffusa si concentra tanta ricchezza su pochi? Questa è la mia osservazione che volevo porre sul nostro tavolo di discussione. L'altra cosa invece che volevo porre è la tassazione. Dovrebbe essere, a mio parere, eliminata la tassazione diretta. Dovrebbe essere tutta indiretta, nel senso che chi più ha, più consuma. È difficile che uno che abbia tanti soldi non spenda nulla. Quindi è chiaro che contribuisce alla tassazione, quindi alle entrate, con le imposte indirette, che è la vera imposta. Questa era la mia riflessione. Allora, grazie a Gianni. Sentiamo Andrea da Roma, poi faccio qualche considerazione io. Andrea, prego Andrea. Sì, io volevo partire da una cosa che ho visto in televisione l'altro giorno per esprimere un po' quello che è il mio ragionamento. C'era Casini da Fazio che ha detto proprio in modo lineare e cristallino l'intervento dei tecnici, le emergenze che abbiamo dovuto gestire un anno fa da Monti in poi derivano da necessità, dal rischio di non pagare lo stipendio ai dipendenti pubblici. Forse l'ha detto ingenuamente, l'ha detto volontariamente, non lo so, l'ha detto tutto. È tutto qui. Io la mattina mi alzo, esco, vado a produrre, creo IVA, creo fatturato per pagare lo stipendio ai dipendenti pubblici. Questa è la situazione, come posso dire, l'interpretazione che io do sull'argomento coesione sociale. Coesione sociale vuol dire che c'è un nuovo terzo Stato composto da piccole imprese, partite IVA, disoccupati, dipendenti del privato, precari e chi più ne ha più ne metta, che pagano lo scotto del primo e secondo Stato. Quindi tutta la classe politica, tutti i dipendenti pubblici, magistrati e compagnia cantante, metà paese che deve stare a pecoroni a disposizione dell'altra metà del paese. Io mi domando solo quando il terzo Stato, il nuovo terzo Stato che questo paese ha creato, si renderà conto e sarà consapevole di se stesso. Va bene, va bene. Anche qua ti darò una qualche parolina per la fine. Benedetto da Padova. Buongiorno. Allora, io ho una domanda da porle Giannino. Vorrei conoscere la sua opinione su una proposta di Grillo che consiste nell'accertamento dello stato patrimoniale dei politici e di tutti coloro che hanno avuto a che fare con il denaro pubblico 20 anni fa, a confronto, con lo stato patrimoniale di oggi e vedere se questa differenza è compatibile con la dichiarazione dei redditi. Perché se non lo è, vuol dire che l'arricchimento ha avuto cause illegittime. Una piccolissima parentesi ancora, vorrei ricordare un dato che lei conosce meglio di me. La corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi l'anno, secondo la Corte dei Conti, il che significa 115.000 euro al minuto. Quindi mi farebbe molto piacere sentire la sua opinione in merito alla proposta di Grillo. È una domanda che pongo a lei, sapendo che riceverò una risposta diversa da quella che riceverei da tanti giornalisti leccaculo che risponderebbero dicendo che non bisogna tenere in considerazione granché le proposte di Grillo demagogiche e populiste. No, su questo sa Benedetto che non la penso così. Io penso che sia più che comprensibile, legittimo e anche in una certa misura molto giusto che intorno al Movimento 5 Stelle si sia radicato il consenso che c'è. Vediamo adesso, per effetto delle polemiche di questi giorni, un po' che cosa succede, però io penso che comunque sarà un grande protagonista alle urne. Guardi, io non ho dubbi sul fatto che bisogna fare anche accertamenti di questo tipo, cioè io penso che il reddito dei politici deve essere monitorato con ancora maggiore attenzione di quello dei cittadini, perché fenomeni di arricchimento dei politici impropri e connessi all'utilizzo improprio di questo eccesso di denaro pubblico che c'è nello Stato, secondo me vanno accertati. Quindi non è una proposta che mi scandalizza. La seconda cosa che volevo dire è quanto al secondo o terzo Stato. Io penso che questo secondo o terzo Stato, insomma, dovrebbe prendere in mano il proprio destino, mi auguro che lo faccia, a cominciare dalle prossime elezioni. Quanto invece alla concentrazione di ricchezza, 10% che 50%, guardate, guardatevi le tavole comparate dell'indice di Gini Italia rispetto ad altri paesi. L'indice di Gini è quello che appunto misura la concentrazione del reddito e del patrimonio. Noi non apparteniamo affatto al novero dei paesi in cui la concentrazione è più sperequata, non lo siamo, e siamo partiti buoni ultimi in un processo di redistribuzione di reddito e patrimonio che in pochi decenni ha fatto enormi passi avanti. Quello che avviene, sto concludendo, è che in pochi anni però questo fenomeno cambia di segno, ecco, questo sì. Ed è lì che vi ha accentrata la risposta alla crisi italiana. Appuntamento a domani, grazie a tutti.